Questo di sicuro è comunista. Di sicuro è comunista questo. Non si sente, c'è uno che non si sente tanto bene. Ma si chiama Banana. E le è andata in culo per traverso. E, cosa vuoi che ti dica? Dai. È un disobbediente, magari.